gente non sapeva dicevi il mondo domani cambierà. Qualcuno t'amava, la gente non ti capiva, pensava al pane, alle code sulle strade dove il cielo fermava anche gli orologi. Quella notte scura, non c'era nessuno, facile pensare a un altro mondo. Il tuo corpo diventò un'acrobata e quel salto giù nel vuoto finì. Ma quella notte qualcuno sparò, nella mano spingevi una pietra venuta dal muro dell'est. Ora il mondo è cambiato, la gente ci passa in quel posto, ma se guardi per a quei sassi c'è ancora una pietra che porta una storia. Chi ti raccolse al mattino dice che negli occhi avevi il gelo, la chitarra era ancora avvolta al tuo corpo. Quella notte intorno non c'era nessuno, facile pensare a un altro mondo. Il tuo corpo diventò un'acrobata e quel salto giù nel vuoto finì. Ma quella notte qualcuno sparò e la mano stringevi una pietra venuta dal muro delle